Signore e signori, Gigi D'Agostino. Thank you. rapida successione dei fenomeni. Gigi, hai conquistato perfino mio papà. Benissimo. È incredibile. Gabri di Darfo Boario Terme. Nello studio delle cause e nella successione dei fenomeni. E nella successione dei fenomeni. Il cammino di Gigi D'Agostino. Una buona occasione per diventare tamarro. Bella Gigi, più ti ascolto e più divento tamarro. È giusto. Suonami un passo lento ma violento. Passo lento ma violento. La dedico a Xaldo 69, Ellie Wands e Chianto DJ, Dalelle di Cumiana. Passo lento ma violento, e ne passa lo sgomento. Passo lento ma violento, e ne passa lo sgomento. Passo lento ma violento, e ne passa lo sgomento. Officina emotiva. Sabato 10 febbraio 2007, ore 22:30. Officina emotiva. Con Gigi D'Agostino in concerto mentale nella sala sperimentale presso la discoteca Metropolitan. Casteggio, Pavia. Suoni e colori per bimbi e genitori. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. notte danzante. Gigi, sono contenta di percorrere con te il tuo cammino. Peccato che duri soltanto un'ora. È vero, è vero. Grazie per le emozioni che mi regali. Silvietta. Il cammino di Gigi D'Agostino è a vostra disposizione. Fatevi sentire. 3 3 3 6 4 6 7 6 6 2. Potete dire quello che volete a chi volete. Il temporale ricorda quanto è bella l'estate. Le foto, quanto è bello crescere. Gli amici, quanto è bella la vita. Complimenti per la tua musica, Gigi. Ken 91. Il cammino di Gigi D'Agostino. Non giochiamo. Mischia bene sti dischi, vai Gigi. Benvenuti nel nostro giardino. Qui c'è la musica di Gigi D'Agostino. A volte è scontrosa, a volte è più dura, ma la vostra mente viaggia sicura. I think my people.

spettacolo, Gigi. Continua così, che ci rendi felici. Sei un centro di produzione di emozioni. Te ne siamo grati. L'avvocato. È come se tutto fosse strano, aria. È come se tutto fosse strano, aria. Sulle mani. È come se tutto fosse strano, aria. O è come se tutto fosse strano, aria. Sulle mani. Officina emotiva. Domani sera, sabato 10 febbraio 2007, ore 22:30. Officina emotiva. Con Gigi D'Agostino in concerto mentale nella sala sperimentale. Presso la discoteca Metropolitan. Casteggio, Pavia. Officina emotiva. Domenica 11 febbraio 2007. Presso la discoteca Pascià. Località La Pineta. Tarragona. Spagna. Area per Gigi D'Agostino. Sulle mani. Area per Gigi D'Agostino. Fermamosi un momento, parte lento violento, e vi... Maestro, Corteadro, Erburattino, Gigi D'Agostino. Sono DJ Fagio. Vorrei dedicare alla Compagnia del Martello la canzone Cambio Casa.